Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla iniziale di questo programma. Bene, questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine fino alle ore 21:30 e oggi appunto 5 giugno 2025, e ora andiamo all'ascolto di questa band californiana. Primo 7 pollici d'esordio per questi appunto californiani, prima uscita nel 1988, loro sono gli Operation Ivy, e questo è il 7 pollici. Comunque, ascoltiamo. Spitting at the wind. Got to know that weapon, so you should have ran away. Kicked myself a thousand times, but now it's too late. Yelling in my ear, you're such a control thing. Yelling in my ear, you're such a control thing. Yelling in my ear. And that's just what you're gonna do, hey, you always doing shit with your irritating voice. I don't wanna listen, but I got no choice. Yelling in my ear, you try to control me. Yelling in my ear, you look but you don't see. Yelling in my ear, yelling in my ear, yelling in my ear. Ah, quit acting like you're not. Sì, giovedì 5 giugno, bentornate e bentornati all'ascolto di Zernis Magnetics. E allora, intanto per cominciare, volevamo dare la nostra solidarietà al compagno Paolo Todd, che è in sciopero della fame al carcere di Utah. E se ne è parlato, ne hanno parlato della situazione del carcere di Utah anche nei media mainstream, diciamo, in quanto c'è questo problema grosso di non potabilità dell'acqua, e l'acqua è contaminata dal, insomma, diciamo, feci, eccetera, quindi non si può assolutamente bere e nemmeno utilizzare per cucinare. La dirigenza carceraria ha pensato bene di riempirla di cloro, perciò quindi di metterci un altro veleno, diciamo, e da qui è nata una già ad aprile, verso alla fine di aprile, una, insomma, delle proteste da parte della comunità carceraria, dei detenuti, e è partito appunto anche questo sciopero della fame a cui partecipa anche a cui ha aderito anche Paolo Todde. Poi dopo, però, nelle varie trattative c'è stato un rientro, diciamo, di questo di questa forma di protesta attraverso il proprio corpo, ma il compagno ha deciso di continuarlo, sì, di proseguire con lo sciopero, quindi è da un bel po' in sciopero della fame. Tra l'altro parte da una situazione, diciamo, fisica così un po' precaria, nel senso che è una persona già sottopeso. E sì, questa, insomma, è un modo, una forma di protesta estrema molto importante. Abbiamo visto l'importanza di questa forma di protesta con lo sciopero a oltranza di Alfredo Cospito, ma è importante che appunto non solo venga portata avanti dal detenuto, ma che ci sia una solidarietà, una mobilitazione anche all'esterno. Quindi invitiamo anche a scrivere al compagno, trovate i riferimenti per scrivergli sul Rovescio, ad esempio, o comunque anche su altri blog di movimento. E ecco, dopo aver ricordato questo, introduciamo un po' la puntata, cioè la trasmissione di oggi, e pensavamo di dedicarla a una così narrazione, un'analisi, una chiacchierata su questo libro appena uscito, alcuni scritti su Camina Libre, Identità irriducibili di una lotta anticarceraria. Per chi ha ricevuto la promozione della trasmissione, abbiamo messo questa citazione da uno dei documenti del collettivo Camina Libre del Cile: tra disadattati, sfruttati e nativi, l'unità. Appunto, questo collettivo anticarcerario, poi dopo diremo un po' la sua storia, comunque attivo, diciamo, tra la fine degli anni, cioè tra gli anni 90 e gli anni 2000, e appunto loro identificavano, diciamo, hanno dato una svecchiata ai movimenti della sinistra rivoluzionaria, anche di impostazione più tetragona, diciamo, di quel paese. Che erano nati durante la dittatura di Pinochet, ma poi avevano continuato anche, diciamo, nella transizione cosiddetta democratica. Ma e loro appunto hanno identificato questo discorso dei disadattati, che sarebbero tutti coloro che non si adattano al sistema capitalistico di sfruttamento, alla repressione, allo Stato, e gli sfruttati, che sono appunto possono essere identificati, diciamo, con la classe lavoratrice, ma non solo la classe operaia, come, diciamo, e quindi non solo le lavoratrici e i lavoratori dei centri urbani, ma anche i campesinos, i sottoccupati, i sottoproletari, e poi i nativi. Per i nativi, appunto, c'è un particolare riferimento al popolo mapuche, no? Che in Cile e in Argentina viene continuamente, insomma, derubato, massacrato, e che ha questa al suo interno anche questa forte dimensione di classe. Appunto, con questa frase, insomma, tra disadattati, sfruttati e nativi, l'unità, questo desiderio di unire le proprie istanze, le proprie forze, la propria forza anche di lotta, per sovvertire completamente questo sistema, insomma, senza nessuna mediazione di tipo istituzionale. E intanto questo, poi partiamo con l'approfondimento. (Sussurra) questo, quello di... Sì, prima mi sono dimenticata di dire che il libro di cui parleremo stasera, così, alcuni scritti su Cammina Libre, lo trovate in distro, per chi è interessato, anche nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine, e altrimenti, se vi interessa riceverlo, scrivete a presopolitico@anche.no. Allora, un'altra cosa importante di questo libro è il fatto che ha contribuito, diciamo, alla stesura di questo testo Marcello Villarroel Sepulveda, che appunto ha fatto parte anche del collettivo Cammina Libre, e il libro si basa anche su una tesi di laurea, diciamo, redatta da Francisco Solar, altro compagno che ormai è detenuto da un bel po', praticamente arrestato nel 2020, e nel 2023 è stato condannato a 86 anni di carcere, ricordiamo, per azioni contro Carabineros e un ex ministro dell'Interno e della Difesa Nazionale, nonché per un'azione contro un immobiliare in un quartiere borghese di Santiago, e quest'ultima cosa nel contesto delle rivolte generalizzate del 2019, appunto, in Cile. E tra l'altro Francisco Solar è detenuto nel modulo 33 del carcere La Gonzalina, che è un carcere, come si dice, dove praticano il lavoro forzato, insomma, ed è rimasto per tantissimi anni in isolamento, è uscito da questo isolamento, cioè un isolamento che prevedeva 21 ore di isolamento in cella, senza TV, radio, con restrizioni sulle visite, anche sulle letture, eccetera, e da questa situazione, da questo regime drastico, è uscito a fine marzo di quest'anno, per dire che comunque sono questi compagni, sia Francisco Solar che Marcelo Villarroel Sepulveda hanno un'esperienza diretta, no, della tortura carceraria. 5 anni. Sì, 5 anni è stato in isolamento Francisco Solar. Appunto, e lui nel 2006 aveva fatto questa tesi, non vorrei dire una roba per l'altra, ma mi pare che è giusto. Comunque aveva lavorato a questa tesi su Cammina Libre, e appunto perché era interessante, cioè per attualizzando anche, no, il discorso, cioè dicendo che quello che dicono vale anche per le lotte dell'attualità. Un'altra cosa importante di questo collettivo è che spostano, diciamo, cioè loro dicono dalla prigione politica alla calle, cioè loro dicono prigionieri politici alla calle, no? C'è questo modo bellissimo, tra l'altro secondo me anche molto evocativo, di dire, di nominare il prigioniero e di dire alla calle, cioè per strada. Quindi, a differenza, diciamo, degli slogan delle organizzazioni dei prigionieri politici più storiche, che facevano appello alla libertà, ma insomma anche noi, no? Si tende a dire Alfredo libero, Anna libera, eccetera. Loro, Cammina Libre propone, fa questa proposta di tornare in strada, perché loro dicono non c'è la libertà nemmeno fuori dal carcere, però la strada è uno spazio fisico fuori dal carcere in cui si può lottare per la libertà. Quindi il fatto, diciamo, la lotta per tornare in strada, no? che tra l'altro è quanto mai attuale, importante in questo momento qua. Ricordiamola, ad esempio, il fatto, tra tante robe, ma insomma una roba importante, l'approvazione del decreto sicurezza, che vuole in tutti i modi impedire che ci sia una lotta di strada. Proprio in questo momento qua è importante ritornare in strada, cioè non avere paura di stare in strada e di lottare in strada. E un'altra cosa importante è il discorso sui prigionieri cosiddetti comuni, che il collettivo Cammina Libre chiama prigionieri sociali, no? Allora, c'è tutta la storia per cui negli anni della dittatura, ma anche prima, e prima anche della creazione, diciamo, del carcere, del regime di alta sicurezza nelle carceri, e c'erano state in Cile grosse problematiche tra i prigionieri politici e i prigionieri cosiddetti comuni, scontri, insomma, anche robe, raccontano in questo libro, anche robe abbastanza così pesanti. E c'era da parte dei militanti, diciamo, dei prigionieri politici classici, una certa diffidenza, o comunque veniva minimizzata l'importanza della mobilitazione, o comunque anche della coscienza dei prigionieri cosiddetti comuni. Invece Cammina Libre rovescia questa cosa, proprio anche per questa cambio di paradigma, insomma, questa anti-autoritarismo, no, intrinseco, poi vedremo in questo collettivo. Invece li chiama sociali, prigionieri comuni, e appunto supera questa divisione tra prigionieri politici e prigionieri comuni, li chiama sociali, dice appunto sono il frutto di questa società devastante. E poi si esprime il collettivo Cammina Libre per l'abolizione totale del carcere, cioè diciamo che sono chiari in maniera molto chiara, cioè che qualsiasi sia la condotta, diciamo, anche la più così odiosa, o comunque che mette in discussione, che mette in crisi, che mette in difficoltà, che mina alla base, diciamo, il consorzio sociale o comunque le comunità, non è mai giustificabile il fatto di imprigionare esseri viventi. Infatti loro parlano anche degli animali, e non è mai giustificabile, non è mai una cosa che, cioè, è una cosa che va assolutamente evitata, e bisogna lottare affinché questo non avvenga. Ecco, quindi anche questa è una cosa importante. Ma bon, allora vediamo un po' di, perché io poi tendo a divagare anche troppo, e dico solo questo: ritorno a Marcelo Villarroel Sepulveda. Tra l'altro lui, anche questo compagno, adesso c'è un ricorso, perché La giustizia, praticamente gli sono state comminate delle condanne dalla giustizia militare durante il periodo di Pinochet, e questo è assurdo, ma queste condanne qua continuano a stargli sul gruppone. Lui fu arrestato per la prima volta nell'87, 1987, all'età di 14 anni, accusato di aver svolto attività di propaganda armata contro la dittatura di Pinochet all'interno di un liceo di Santiago, e per la sua militanza nel MAPU Lautaro, appunto questa organizzazione politico-militare marxista-leninista attiva contro la dittatura di Pinochet e anche in seguito nella transizione democratica successiva. Nel 92 Marcello viene di nuovo arrestato dopo 2 anni di clandestinità, e sempre per la sua militanza nel MAPU Lautaro, e che intanto, appunto, anche dopo la caduta di Pinochet nel 90, aveva deciso di continuare con un posizionamento di lotta armata anche contro il così la ripristino la transizione democratica. E nel 94 in Cile, quindi in piena transizione democratica cosiddetta, e anche questo ricorda la situazione italiana, viene inaugurato un regime di alta sicurezza, e Marcello Villarroel Sepúlveda viene trasferito in questo regime di alta sicurezza insieme ad altri 33 prigionieri. E in questo primo periodo di detenzione, a partire dal 95-96, inizia a prendere fa parte anche lui del collettivo Cammina Libre, e poi insomma in seguito riesce ad andare in clandestinità, ma viene riarrestato nuovamente nel 2008 in Argentina insieme a un altro compagno, e poi vengono estradati in Cile nel 2009. E appunto nel 2014 il tribunale cileno lo ha condannato a 14 anni di carcere per queste 2 rapine, insomma le ultime di cui è accusato, e poi a un totale per tutte le altre incriminazioni, comprese queste che dicevo della dittatura militare, a 46 anni di carcere. E per questo in questo momento qua appunto c'è questa lotta anche legale per cercare di, insomma, di portarlo alla calle, appunto, di nuovo. Bon, un po' di musica e poi continuiamo. Rifiuta di infamare, svende la tua memoria per una droga dello Stato, mercante della tua mente. Chiunque può essere internato, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ed essere prelevato, rinchiuso, drogato, annullato da farmaci che provocano la perdita dell'autocontrollo, delle azioni del pensiero. Chiunque si rifiuta può essere sottoposto a continui ricoveri, reso assuefatto dai farmaci, sottoposto ad una metamorfosi della persona, spossessato della propria memoria, perdere l'autonomia del suo corpo. La loro cura è la repressione! Allora, dicevamo del discorso che il regime di alta sicurezza, penitenziario di alta sicurezza è stato introdotto in Cile nel 1994, e quindi in piena diciamo transizione democratica, quindi dopo la fine della dittatura. È un classico, no, di queste democrazie autoritarie, cioè degli stati, di creare, diciamo, questi regimi di differenziazione. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito del libro qua su Cammina Libre è che loro dicono: durante la dittatura venivamo chiamati estremisti, e quindi c'era una connotazione politica. Cioè il regime chiaramente ci odiava, ci ammazzava, ci massacrava, ci faceva di tutto, però ci diceva che eravamo degli estremisti, dei sovversivi. Invece l'avvento della democrazia hanno cominciato a chiamarci terroristi e criminali, quindi hanno diciamo negato, depotenziato il significato politico delle nostre azioni, e in più anche la risposta repressiva non è stata da meno, diciamo, di quella che è stata durante la dittatura. A questo proposito, nel libro si parla molto di questo discorso del coordinamento repressivo tra stati, e anche di questa globalizzazione della repressione, e anche del ruolo di modello della differenziazione carceraria e dell'isolamento dei prigionieri che ha proprio l'Italia. Difatti l'Italia allora, nell'ultimo anno, tra il 24 e il 25, sia la democrazia francese che quella cilena hanno avviato interlocuzioni con i professionisti dell'antimafia e dell'antiterrorismo italiani per esportare nei loro paesi il modello del 41 bis, perché anche la Francia è attraversata da scontri sociali non da poco. Anche ultimamente, insomma, ci sono state diverse azioni radicali, e pure il Cile. Quindi loro, questi due stati, hanno pensato bene di perfezionare i loro regimi carcerari chiedendo aiuto all'Italia. Allora, lasciamo perdere la Francia, magari ne parleremo in un altro momento, però. Allora, vado a leggere dal libro alcuni scritti su Cammina Libre. Da oltre un anno nel nuovo Cile democratico di Boric è in corso un dibattito sull'opportunità di implementare il regime del 41 bis nel contesto più ampio di una riforma della gendarmeria e del regime penitenziario. Per il procuratore nazionale cileno Ángel Valencia è importante guardare all'esperienza italiana. Gli italiani hanno ottimizzato i loro sforzi per combattere la criminalità organizzata, hanno creato nuove carceri rispettando gli standard europei sui diritti umani, alla faccia. Nel settembre 2024 l'ambasciata d'Italia a Santiago ha organizzato un incontro per presentare alla Corte Costituzionale cilena il modello del 41 bis e la sua storia, tenuto dal professor Antonello Canzano dell'Università Roma III, il quale ha sottolineato come la sua genesi si trovi in ben 30 anni di storia repressiva dello Stato italiano. Ricordiamo che il 41 bis è stato l'articolo 41 bis è stato introdotto in Italia nel 1986. Allora, ampia attenzione è stata dedicata al cosiddetto modello italiano di lotta al crimine organizzato, di cui parte integrante rappresenta il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario italiano. La visita di Canzano, di questo professore di Roma III, in Cile, lungi dall'essere un evento isolato, è stata preceduta pochi mesi prima da quella del magistrato Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere del Ministero degli Affari Esteri e vice direttore del programma europeo El Pacto 2.0, programma europeo di cooperazione con il Sud America per la lotta alla criminalità organizzata, non a caso con l'Italia come paese coordinatore. La nuova legge antiterrorismo cilena è stata approvata a inizio febbraio 2025, più moderna, efficace e democratica, che andrà ad ampliare il reato di associazione terroristica. Ecco, e viene praticamente, insomma, viene allargato questo discorso qua. Quindi c'è anche questo, anche questo discorso del, di cui si parla, insomma, questa tendenza alla guerra interna per distruggere il nemico interno, appunto il nemico del sistema, è in corso, è trasversale, non c'è solo qua, però l'Italia ha un ruolo centrale in questo. Ma prima di continuare così con altri approfondimenti, diciamo una cosa cioè eroica, diciamo un avvenimento eroico di questi combattenti di Camina Libre, e cioè il 30 dicembre 1996 c'è stata questa fuga dei Rodriguistas, cioè di questi compagni di Rodriguez, Álvaro Rodriguez, una fuga con l'elicottero da questo carcere di alta sicurezza di Santiago. E questa fuga, scapparono in 3 o 4, non mi ricordo, ma adesso leggiamo una testimonianza di un detenuto, e loro l'hanno chiamato il volo della giustizia. E vabbè, intanto vediamo di cosa si tratta. Gli echi delle eliche. Nel caldo pomeriggio del 30 dicembre 1996, un elicottero sorvola il carcere di massima sicurezza, spara alle torrette della gendarmeria e lascia cadere un cesto corazzato artigianale che al suo interno trasporta armi corte. Un'impressionante operazione aerea, operazione Volo della Giustizia, questo è il nome con cui il comando Mauricio Arenas Bejas effettuò la fuga più spettacolare nella storia delle carceri cilene. Il tutto è stato visto dalle celle dell'ex penitenziario e raccontato dal detenuto sociale Gino Alvarado mentre registrava un'audiocassetta per la sua compagna. Amore mio, sai che in questo momento c'è un elicottero qui accanto a noi, sparano proiettili, non so se vogliono far scappare qualcuno oppure... Fuggono, stanno scappando, tre stanno scappando, tre in elicottero, devono essere estremisti. Stanno scappando, Mari, tre galli stanno scappando, che divertimento, Mari, sapevi che è passato un elicottero e ta ta ta ta ta ta ta ta ta? Guarda le persone che applaudono per come sono scappati, guarda, ecco l'elicottero, amore mio, con tre galli, sono in aria, apparirà al telegiornale, apparirà ovunque, amore mio, applausi, urla e risate in sottofondo. Erano le 15:45 e, dopo un breve passaggio attraverso il CAS, l'elicottero ha percorso 10 km per atterrare nel Parco Brasil, situato al confine tra i comuni di La Gragna e La Florida, nella zona sud di Santiago, luogo in cui i fuggitivi sono saliti a bordo di diversi veicoli e sono scomparsi senza che nessuno dei soggetti coinvolti fosse catturato. Sono poi riapparsi sorridenti in un video in cui rivendicavano la fuga. I fuggitivi non erano tre come riferito da Gino, bensì quattro: Riccardo Palma Salamanca, Mauricio Hernández Norambuena, Pablo Muñoz Hoffman e Patricio Ortiz Montenegro, tutti membri riconosciuti del FPMR autonomo. Gli speciali e i telegiornali si susseguivano raccontando lo sconvolgente salvataggio e intervistando testimoni che lo descrivevano come cinematografico. Luis Diaz, un tassista che ha assistito a tutto dalla strada, racconta: mi sembrava strano che rimanesse paralizzato a mezz'aria. All'improvviso abbiamo cominciato a sentire gli spari. La verità è che non potevamo fare altro che guardare. Eravamo congelati. L'elicottero, nel bel mezzo della sparatoria che è scoppiata, ha lasciato cadere qualcosa, un cesto, e poi risalito, ha virato verso sud ed è scomparso. Il pilota dell'elicottero è un grande. Uno degli elicotteristi era seduto sul portellone, come quelli della guerra del Vietnam. Da lì ha sparato ai gendarmi. Era davvero qualcosa da non credere. Mi sembrava di stare ancora guardando il film di Arnold Schwarzenegger di ieri sera, ha raccontato con entusiasmo. Ci sono voluti solo 58 secondi e 70 colpi di fucili M16 perché il sogno di ogni prigioniero diventasse realtà. Le conseguenze politiche non si sono fatte attendere. Il senatore del PPD Sergio Bitar ha dichiarato alla stampa che il governo e tutti si sono resi ridicoli. La destra non è rimasta in silenzio. Juan Antonio Coloma, UDI, ha dichiarato: stiamo entrando in un campo di vergogna nazionale. Sconvolto anche perché due dei fuggitivi erano stati accusati di aver partecipato all'esecuzione dell'ideologo della Costituzione del 1980. L'emblematico senatore dell'Opus Dei e dell'UDI di estrema destra, Jaime Guzmán, il direttore nazionale della gendarmeria Claudio Martinez, si è dimesso il giorno stesso, dichiarando che la fuga è stata un fallimento assoluto dei servizi di intelligence del paese. Il Ministero dell'Interno si è assunto tutta la responsabilità della politica penitenziaria. Io e il ministro Soledad Alvear abbiamo presentato le nostre dimissioni e il presidente Frei ci ha confermato nella carica, ha dichiarato il sottosegretario José Antonio Gómez. Telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telefonando, telef Allora, stiamo ascoltando questo 7 pollici dei Memento Mori, mentre prima abbiamo ascoltato gli FCT da Nuoro, dal loro split con i Mr. Murrungio, mentre prima ancora in sottofondo, mentre si parlava di queste bellissime storie del Cile, abbiamo ascoltato i Conflict da un disco live, Turning Rebellion into Money. Ora, questa storica fuga in elicottero dei Rodriguistas dal CAS, dal carcere di alta sicurezza, è stata vissuta, come abbiamo sentito, e testimoniata dai prigionieri politici, e ma anche da quelli sociali, con entusiasmo e gioia. E vado a leggere dal libro. I vari mezzi di controllo e sorveglianza di cui disponeva questo carcere tecnologicamente avanzato furono infranti per la prima volta. I gendarmi rimasero sbalorditi da un'azione così spettacolare, senza poter fare nulla per fermarla, cosa che diede loro, secondo loro dichiarazione, un sentimento di sconfitta e impotenza che si sarebbe poi scatenato brutalmente contro il resto dei prigionieri che continuavano ad essere detenuti nel CAS. Oltre alle torture e le percosse, lo Stato decise di togliere tutti i benefici carcerari guadagnati dai prigionieri politici durante le lunghe mobilitazioni, tra l'altro mobilitazioni che implicavano spesso e volentieri lo sciopero della fame a oltranza. È stato il prezzo da pagare per l'azione vittoriosa dei frontisti. Tenendoci rinchiusi e sottoposti alla discrezionalità delle guardie carcerarie, ferite nel loro orgoglio di custodi nei mesi di gennaio e febbraio del 97, era solo la lotta che avrebbe potuto farci ottenere di nuovo quei diritti conquistati. Dovemmo nuovamente ricorrere alle uniche armi a nostra disposizione, il corpo e la salute, iniziando un nuovo sciopero della fame a tempo indefinito. E ancora una volta è con le intense mobilitazioni, soprattutto all'interno del CAS, che i prigionieri politici riescono a recuperare i diritti precedentemente conquistati. È in questo periodo che il coordinamento indipendente Cammina Libre, insieme a membri del FPMR autonomo e del MIR, viene sciolto perché, vabbè, altri movimenti di lotta, insomma, viene sciolto perché i Rodriguistas partecipanti a quel coordinamento erano fuggiti. Questo fatto però non si è rivelato un ostacolo per Cammina Libre, perché Cammina Libre sceglie di rafforzarsi attraverso il contatto con gruppi affini fuori dal carcere. Allora, torniamo un attimo indietro e vediamo un po' come cioè indietro no, perché è contemporaneo, ma come nasce questo collettivo. Allora, abbiamo detto che comincia a prendere forma all'interno del carcere di alta sicurezza inaugurato a Santiago del Cile nel 1995, e la maggior parte, una dozzina di compagni che provengono dall'estinto movimento Mapu Lautaro, come si diceva prima. Alcuni di questi compagni erano stati proprio espulsi nel corso del 1995, quindi all'interno del carcere di alta sicurezza, proprio da questo movimento, per differenze ideologiche incolmabili, etichettate da detta organizzazione come, cito tra virgolette, deviazioni anarchiche che minacciavano l'unità del partito. Quindi c'è questo distacco, diciamo, un po' dal movimento Mapu Lautaro, che poi alla fine, cioè la maggior parte poi delle persone detenute in alta sicurezza che ne facevano parte, lasciano questa organizzazione, quindi appunto per questo si usano la parola estinzione. Allora, ufficialmente il primo testo firmato come Cammina Libre, collettivo dei prigionieri politici Cammina Libre, risale al 1997 e si inquadra nella continuità del processo che abbiamo cominciato a percorrere come spazio autonomo e sovversivo che si dichiarava anticarcerario, orizzontale, insurrezionale, di resistenza offensiva, controculturale, generatore di una proliferazione di attacchi pianificati e permanenti contro tutte le strutture del potere dello Stato. Abbiamo anche trovato un accordo tra le diverse prospettive teoriche specifiche, da quelle con uno sguardo più individualista, con l'innegabile predominanza di una base marxista, comunque lasciando il posto al potente flusso di idee e pratiche anarchiche. Dal 1996 e prima di autodefinirci Cammina Libre abbiamo iniziato a distribuire le nostre pubblicazioni, frutto dell'imprescindibile bisogno di comunicazione e confronto nel campo fecondo delle idee, lasciando spazio al dibattito e alla riflessione attraverso questa pubblicazione che si chiamava Libelo, un bollettino, diciamo che nasceva come collettivo, ma era alla fine era un bollettino. Nel 1997 abbiamo iniziato a pubblicare, oltre a Libelo, anche il bollettino informativo Consciencia Alerta. Nel 1998 nasce la pubblicazione artistico-offensiva Tiro, trasgressione, insurrezione radicale organizzata, che ha dato spazio alle varie continue creazioni fluide come autentiche espressioni di una resistenza all'insana reclusione carceraria. Disegno, musica, letteratura ed espressioni varie delle idee creative che stavano nascendo avevano spazio in tutto ciò che stavamo generando come strumenti di propagazione delle nostre idee. Chiamate collettive partecipando e lanciando appelli per manifestazioni, incontri e cortei per lottare per la liberazione dei prigionieri politici e prigioniere politiche. Faccio un altro inciso. Oltre al discorso della della solidarietà con le lotte dei Mapuche, oltre al discorso della liberazione animale, quindi di aver sviluppato all'interno del carcere durante le lotte carcerarie questa sensibilità per la liberazione animale, oltre che tra l'altro, inciso su inciso, in carcere iniziano anche i compagni del Cammina Libre anche a praticare il vegetarianesimo, no? Proprio per mettere in pratica, quindi non unicamente come pratica di salute, diciamo, all'interno della situazione di detenzione, ma proprio per cercare di mettere in pratica subito questa nuova sensibilità acquisita. Ma sviluppano anche un discorso di antimacismo, di valorizzazione delle differenze anche di genere e di orientamento sessuale e ad esempio rispetto al discorso della sensibilità, diciamo, verso le donne hanno insomma delle riflessioni anche contro la famiglia patriarcale, in generale contro il matrimonio, insomma tutta una serie di istituzioni abbastanza che non erano state messe in discussione in precedenza anche dai movimenti rivoluzionari sovversivi. E allora, appunto, attraverso queste pubblicazioni i compagni di Cammina Libre cercano di creare questa connessione con l'esterno, no? Quindi ritornare sulla strada, creare questa connessione con la strada, quindi non più i prigionieri come, diciamo, non una visione vittimistica o comunque assistenzialistica dei prigionieri, per cui che magari loro dicono, magari storicamente, diciamo, c'era una, anche per via della violenza inaudita della dittatura di Pinochet e quindi insomma tantissimi morti ammazzati, repressioni efferate, c'era un po' una cultura collettiva del piagnisteo, per dirla male, insomma, rispetto appunto ai, e quindi loro dicono no, cioè vogliamo uscire da questa dimensione qua e ci proponiamo proprio come promotori della rivolta sociale dentro, attraverso appunto tutte le loro azioni, ma anche come fuori, e cercano queste affinità, queste alleanze con l'esterno. E appunto le trovano tra gli disadattati, tra gli sfruttati, tra i nativi e le trovano appunto, e quindi riescono a, in questa fase, insomma, ci sono molte, tuttora ci sono molte manifestazioni di piazza molto incisive, diciamo, non è una roba di piccoli gruppi, ci sono sì mobilitazioni molto molto incisive nonostante la repressione. Ecco, poi un'altra cosa interessante, c'è questo discorso della memoria, cioè della memoria di tutte le forme di resistenza storiche, diciamo dal 73, anno in cui va su al potere Pinochet, fino a, per tutto il percorso della dittatura, fino appunto alla alla ristrutturazione democratica. Cioè, non dimentichiamo che molti di questi compagni vivono, perché la dittatura finisce nel 90, quindi vivono le scuole, cioè sono compagni relativamente giovani, insomma. Villarroel a 50 e poco più, non è che, però hanno vissuto queste persone la dittatura nella loro propria vita, nel senso che comunque e quindi hanno masticato, diciamo, la repressione, ma anche la voglia di rovesciare questo sistema fin dalla più tenera età. E quindi l'importanza, dicevo, della conservazione della memoria e anche il riscatto della memoria dei compagni e delle compagne morti assassinati, e non solo quelli morti assassinati durante la dittatura, ma anche quelli morti assassinati durante la transizione democratica. Bon, il tempo mi pare che vola, però volevo dire un'altra roba sul discorso dell'usare la lettera K, perché appunto collettivo cammina libre usa 2K, e questa lettera K viene utilizzata dandole un significato controculturale, ma anche recuperando la fonetica meticcia di chiara influenza mapuche. E loro dicono: abbiamo rotto con legami politici formali di ogni tipo, negando anche il rapporto con le organizzazioni politiche verticali che ci cercavano, con la vecchia logica della cooptazione, ignorando sostanzialmente la nostra netta demarcazione per la distruzione di ogni traccia organica di gerarchia. Abbiamo scelto che le relazioni orizzontali in tutti gli ambiti costituissero il principio fondamentale di funzionamento per la costruzione del nostro percorso di resistenza anticarceraria collettiva, che sapevamo avere una fine quando l'ultimo compagno membro di Cammina Libre sarebbe stato nuovamente in strada, e questo avvenne nel 2003. Allo stesso tempo avevamo la chiara consapevolezza che stavamo gettando le basi per un nuovo percorso di pratiche multiformi che consentivano il flusso di idee insieme ad un'attività sovversiva influenzata dal comunismo autonomo, dal consiglierismo, dal situazionismo, dall'anarchismo insurrezionale, dal comunismo libertario, dal marxismo e dalle sue varie correnti. Una convivenza armonica non esente da tensioni, ma che aveva come criterio principale il camminare insieme nello stesso sentiero. Si trattava di uno spazio eclettico, forme di di funzionamento anarchico e poi altre influenze. E, ecco, tra l'altro c'è anche questa cosa importante della, tornando alla K, di questa intersezione con il mondo autonomo della musica e delle autoproduzioni, rap, punk, hardcore, culture musicali con le quali ci siamo ritrovati sostanzialmente su un percorso comune, e da lì abbiamo creato iniziative come dischi, compilation anticarcerari, attività nei territori, agitazioni varie, concerti, canti, creazioni audiovisive, e da lì relazioni internazionaliste con band, collettivi e distribuzioni di propaganda anarchica che hanno permesso un'ampia diffusione della realtà della lotta anticarceraria portato avanti in Cile tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. E questa cosa è riuscita perché appunto c'è un grande scambio tra la Grecia, il Cile, l'Italia e avanti, insomma. E c'è una continua rielaborazione anche politica. tutto c'è ancora in voi, in me, a si play in bande, tu parli bande, a rete, in steam. E di nuovo in voce per questa così finale di Zardins Magnetics di giovedì 5 giugno 2025. Un saluto speciale a chi ci ascoltasse dalle carceri di via Spalato di Udine o per caso arrivasse anche al Coroneo a Trieste, il segnale. In ogni modo davvero saluto solidale con i prigionieri delle carceri qua della zona, quantomeno quelle dove arriva appunto il segnale di Radio Onde Furlane. E oggi per concludere ancora questo approfondimento sul carcere e sulle lotte autonome promosse dai prigionieri, prendendo ad esempio spunto dalla traduzione italiana di quel lavoro fatto, insomma, uscita molto recentemente in marzo, che ripetiamo il contatto è presospolitico@ anche no, per richiedere copie, qualcuna ne abbiamo anche noi, come già detto, in distribuzione. È una autoproduzione fatta da El Buen Trato Ediciones a Marsiglia nel 2023. Per concludere, dicevo, questo così percorso, allora io voglio dire due cose, siccome ne hanno parlato anche i media mainstream, io purtroppo non ho molto modo di approfondire, comunque ho letto le prese di così le prese di solidarietà, le prese di parola in solidarietà dei compagni genovesi. È successa una grossa rivolta al carcere di Marassi, la nostra solidarietà per quello che vale anche a quei prigionieri che hanno subito, ma si parla anche di una questione che è successa tra compagni di cella, però poi appunto sono intervenuti le guardie, le celere per riportare, come già detto in un'altra puntata, insomma, il loro ordine, e quindi ci sono sicuramente stati dei pestaggi eccetera, e nostra solidarietà ai prigionieri del Marassi di Genova in rivolta. E ci sarà anche un presidio che era già programmato per mi sembra questo sabato, e un approfondimento, cioè adesso nei pochi minuti volevo anche dire ancora sullo sciopero della fame del compagno Paolo Todde al carcere di Utah e l'importanza di non lasciarlo solo e scrivergli. C'è, come già detto, un comunicato che sta girando, è arrivato anche alla nostra casella postale di contatto liberetutti@autistica.org, nostra, dell'assemblea nostra permanente contro carcere e repressione. Dicono i compagni qui di Cagliari: il nostro compagno Paolo, prigioniero in custodia cautelare con l'accusa di rapina dal 23 ottobre scorso, il 25 aprile è iniziato uno sciopero della fame insieme ad altri prigionieri per protesta contro le condizioni di vita del carcere di Utah, tra le peggiori d'Italia secondo i dati del rapporto periodico del Garante nazionale. Ma i numeri non possono rappresentare lo stato di sottile, vera e propria tortura a cui sono sottoposti i prigionieri. L'intervento dei garanti con le loro vuote inutili promesse ha fatto sì che lo sciopero venisse interrotto dopo meno di una settimana e Paolo lo riprendesse da solo l'8 maggio, con il chiaro intento di portarlo sino alla fine. Paolo è sottoposto, siccome è, diciamo, è attivo ed è solidale, diciamo, quando c'è da contestare il tipo di trattamenti che i prigionieri subiscono dentro le galere, non si tira indietro, quindi sottoposto a continue provocazioni e infamie da parte degli sbirri, come ad esempio bloccargli la corrispondenza, ingresso di denaro, bloccarlo, non permettergli di effettuare le videochiamate con la scusa che non c'è linea, portarlo con grande ritardo ai colloqui, fare cadere nei secchi in cui lava la roba, libri, corrispondenza e tutto ciò che può rovinarsi, eccetera. Tutte queste violenze si aggiungono alla situazione che Paolo denuncia da mesi. A Utah l'acqua non è potabile, non può essere utilizzata neppure per cucinare dopo che l'amministrazione l'ha mescolata al cloro per eliminare il grave inquinamento da colibatteri fecali che la rende inadatta anche per l'igiene personale. Le celle sovraffollate, sono chiusi 140 prigionieri in più della capienza massima, sono chiuse 22 ore al giorno. L'accesso alla biblioteca e al campo di calceto sono contingentati, le temperature estive raggiungono i 43 gradi, l'assistenza sanitaria è inesistente, le provocazioni degli sbirri continue tanto sui prigionieri che sui loro familiari, spesso si traducono in pestaggi, una vita di questo genere insopportabile per qualunque essere umano, ancora di più per chi in tutta la sua vita non ha mai piegato la testa ed è sempre stato solidale con i nemici del sistema. Paolo, come Alfredo, ha iniziato a rischio della vita una lotta immensa che potrà conseguire risultati solo se siamo in grado di condurre con la stessa determinazione una battaglia di solidarietà, ribadendo la nostra solidarietà, il nostro impegno a estendere la lotta, perché l'amministrazione non possa avere pace. Ricordiamo i funzionari agli sbirri e ai vari garanti, tutti corresponsabili della situazione attuale, che gli oppressi e le oppresse hanno una lunga memoria e che Paolo, se Paolo dovesse accadere qualcosa, dovranno assumersene tutte le conseguenze. Non lasciamo solo Paolo in questa sua battaglia, chi volesse scrivergli può farlo all'indirizzo seguente: Paolo Todde, casa circondariale e Scalas, 09068 Utah, provincia di Cagliari. Contro lo stato assassino, chiudere Utah, chiudere tutte le galere, Paolo libero, tutti liberi e tutte libere, anarchici e anarchiche contro carcere e repressione. Questo era la chiamata a una mobilitazione in solidarietà col compagno anarchico Paolo Todde, recluso a carcere di Utah, e io direi che questa sera abbiamo cercato di mettere a fuoco una cosa non tanto semplice, cioè mettere a fuoco da fuori una possibile unità, una possibile unione tra sfruttati, disadattati e nativi. E questa è una cosa che non si può solo, di cui non si può solo parlare, bisogna anche dare testimonianza nella vita, con i fatti, con le azioni. E questo ovviamente è qualcosa di, diciamo, un'altra dimensione di cui sarebbe inutile adesso parlarne qui in diretta, ma ecco, questi testi che abbiamo portato stasera sono sicuramente, per quanto mi riguarda almeno, una provocazione, uno stimolo e qualcosa anche di seducente, in qualche maniera, come posso dire, una spirale che attira, ecco, almeno a me attira, come una possibilità di vivere in maniera diversa la quotidianità a cui, insomma, siamo, che ci è data, ecco, le condizioni di sfruttamento, le condizioni coloniali, le condizioni patriarcali cui siamo, che ci sono date, ecco, le condizioni date che sono imposte, non modificabili, ma appunto un tentativo di essere all'altezza, insomma, di quello che diciamo a parole, testimoniando con la vita, ecco, con i fatti. Una stupidaggine per chiudere, ecco, scemenza. Sto leggendo la promo, insomma, la frase promozionale, la sto leggendo, tutti possono leggerla, grazie al blog della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma, che bisogna dire, insomma, indefessamente pubblica questa nostra così settimanale promozione ad ascoltare le nostre così i nostri discorsi, le nostre proposte settimanali qui a Zardins Magnetics. Allora stiamo ascoltando gli Inzirli, storica band friulana, dal loro 7 pollici di maggio del 95, omonimo. We'll be right back. Allora, volevamo salutare anche dalla regia di Zardins Magnetics e dire che potete trovare il nostro programma su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, che è il podcast. Se volete scriverci, l'indirizzo email è liberetutti@autistiche.org, oppure se siete impossibilitati a usare il computer come i nostri amici prigionieri, o se avete voglia di scriverci una lettera alla vecchia maniera, scrivete ad Associazione Senza Sbarre, codice postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre vogliamo ricordare anche che il nostro programma è mandato in replica da due web radio, che sono Radio Azione, che ci trasmette il venerdì approssimatamente alle 17, e Radio Eustachio, i nostri amici che ci rimandano, ci rimbalzano sempre il venerdì alle ore 11, a cui mandiamo un forte saluto, e anche a tutti voi, e al prossimo giovedì. Ciao!